godo di sole, di latte, di grano, e sto sempre in forma nella mia piattaforma, mi liscio la faccia con la brasa, sono nel centro del Mediterraneo, godo di sole, di latte, di grano, e sto sempre in forma nella mia piattaforma, mi liscio la faccia con le brasa. Ma è proprio roccia, mi sembra roccia, salda, solida, preda che abbocchina e si scola in ogni gola. E canta solamente quando si sente sola. Ho strozzato una chitarra, parlate a bassa voce, i vicini sono allergici alla luce. Io grido in ogni goccia e canto solamente se sto sotto la doccia. Lo spettro del colore è ancora vivo, spiedo il mio sonno, ago il mio vino, piombo, maleodorante sgasa il mio cibo, mi fascio le labbra con le dita, unghie e matita, fumante mora ti allaccio e farò presto domattina, ce n'è una sola, cardioaspirina in mezzo alle lenzuole. Ecco i vostri secoli di storia. Sono nel centro del Mediterraneo, godo di sole, di latte, di grano, e sto sempre in forma nella mia piattaforma, mi liscio la faccia con le braccia. Sono nel centro del Mediterraneo, godo di sole, di latte, di grano, e sto sempre in forma nella mia piattaforma, mi liscio la faccia con le braccia. Che son sardo te lo dico in italiano, se no non ci capiamo. Mediterraneo, che il sole batte anche sull'ultima ruota del carro, che in periodi di magra si asciuga il legno. Apprezzo la monotonia del luogo, disprezzo chi disprezza come siamo. Monotonia nel suono, dalle voci gutturali all'influenza degli americani. Velluto, poliestere, orbace, tessuto, vissuto, quotidianamente imbevuto, di sangue e vino versato, bevuto, saluto, finito, aiuto. Sono nel centro del Mediterraneo, godo di sole, di latte, di grano, e sto sempre in forma nella mia piattaforma, mi liscio la faccia con le braccia. Sono nel centro del Mediterraneo, godo di sole, di latte, di grano, e sto sempre in forma nella mia piattaforma, mi liscio la faccia con le braccia. Ti puoi togliere la giacca, non le spalle, la crema dalla pelle, non la pelle. Vedi l'acqua che ti scorre addosso, respira, forma una guaina nello stomaco, come ingoiare una busta di nylon piena di nylon. Come il cielo fa che tieni incatenato il tuo di Amazon. Rendilo libero, resisti, arrivo, firmato un amico. Amo la mia terra, odio i suoi difetti, amore e perdono la storia dell'uomo. Gusto, gusto, buono, buono, olio pomodoro sale all'oro ed è un capolavoro. Sono nel centro del Mediterraneo, godo di sole, di latte, di grano, e sto sempre in forma nella mia piattaforma, mi liscio la faccia con le braccia. Sono nel centro del Mediterraneo, godo di sole, di latte, di grano, e sto sempre in forma nella mia piattaforma, mi liscio la faccia con le braccia. Sono nel centro del Mediterraneo, godo